Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa riforma elettorale propongo di chiamarla Deportellum, altro che Italicum. È la legge dei deportati, perché se qualcuno non è d'accordo deve essere cacciato via. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è un ideatore di neologismi piuttosto proficuo, piuttosto fiorente, che è Brunetta, nato Brunetta di Forza Italia, ha detto il deportellum a proposito dell'Italicum, in realtà della riforma elettorale, a proposito di quello che è successo ieri all'interno del PD. Sapete che in una riunione il Partito Democratico ha deciso di rimuovere, di sostituire i deputati del PD che facevano parte della Commissione Affari Costituzionali, ma non erano allineati sull'Italicum. Come quindi Renzi ha deciso, no, allora li dobbiamo sostituire. Ieri ne abbiamo parlato con Andrea Giorgis, deputato del Partito Democratico, che era stato il primo ieri a rivelare che ci sarebbe stata questa sostituzione, l'aveva detto durante il giorno, poi è avvenuta a tarda sera ed era qui a effetto notte. Ma Renzi ribadisce: questa è la democrazia, visto che voi non volevate votare ed eravate dentro la Commissione Affari Costituzionali, non volevate votare positivamente sull'Italico, allora bisognava sostituirvi. Insomma, ognuno la veda un po' come crede. Questa era l'opinione di Brunetta. Staremo un pochino in realtà sulla politica nella prima parte qui di Effetto Notte. Invece, diciamo, di nuovo un certo spazio, lo spazio più consistente lo dedicherò ancora all'emergenza immigrazione, perché si continua a dire che l'Europa non interviene, che l'Italia è lasciata sola, però vogliamo capire questa sera i trattati comunitari, i trattati dell'Unione Europea, cosa prevedono? Che l'Unione Europea possa decidere, possa intervenire, oppure è una questione di stati con una loro sovranità individuale che devono decidere, quindi qualcuno che si può anche rifiutare di non compartecipare, di non accogliere dei profughi. Quindi se volete capire un po' come stanno le cose, non perdete Effetto Notte, come non dovete perdere nessuna puntata, sempre da alle 21 alle 22 tutte le sere. Ci occuperemo anche del famoso tesoretto, perché sembra che ci siano dubbi sull'esistenza, sulla consistenza prima di tutto di questo tesoretto che ha annunciato Renzi nel DEF e anche sulla sua destinazione. Cercheremo di chiarirci un po' l'idea anche su questo. Poi ci sono un sacco di notizie sportive, soprattutto diciamo di calcio, tanto per cambiare. Vedo anche un'agenzia ancora sull'immigrazione: salvati 112 migranti in acque libiche, la Guardia Costiera ha tratto in salvo intorno alle 19 qualcosa 112 migranti che si trovavano su un gommone in acque libiche. Insomma, lo sentite per forza, è una cosa che incalza continuamente e ancora sempre di più adesso col bel tempo. Quindi nella seconda parte, dopo che vi riassumo adesso la giornata, torneremo sull'immigrazione. Se volete intervenire, come sempre, ci sono i vostri due canali privilegiati, che sono prima di tutto la pagina Facebook di Effetto Notte e poi il numero per gli SMS, che è il 349 238 6666. Anche se volete, su una notizia particolare, che è questa sentenza della Cassazione di oggi, secondo la quale anche se il marito all'interno di una coppia cambia sesso, il matrimonio resta valido. Vince quindi la coppia che si era battuta contro il divorzio imposto. Cosa ne pensate di una sentenza di questo tipo? Io intanto vi racconto la giornata. Immigrazione sul barcone della tragedia: erano in 850, si è rovesciato per la collisione con un mercantile. L'Unione Europea pronta un'operazione militare contro gli scafisti. ISIS, il califfo al-Baghdadi è stato ferito gravemente in un raid dalla coalizione anti-jihadisti. Italicum, dopo le sostituzioni dei parlamentari PD di ieri in Commissione Affari Costituzionali, le opposizioni sul piede di guerra, ma Renzi ribadisce: andiamo avanti su tutto. Tesoretto da Banca Italia a Corte dei Conti, i tecnici esprimono dubbi sulla consistenza e sulla destinazione del bonus. Pedofilia, il Papa rimuove il vescovo di Kansas City, coprì un sacerdote sospettato di abusi sessuali sui minori. Sentenza della Cassazione: anche se il marito cambia sesso, il matrimonio resta valido. Vince quindi la coppia che si è battuta contro il divorzio imposto. Calcio Champions League: con stasera iniziano i ritorni dei quarti di finale. In campo Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, Porto. Siamo quindi dalla escalation di questa emergenza dell'immigrazione dopo l'ultima ecatombe, i continui sbarchi. Avete sentito poco fa anche un'altra notizia, le richieste di aiuto. Il presidente del Consiglio Renzi ha sollecitato alcuni interventi concreti in vista del Consiglio europeo che è convocato per giovedì. Interventi nei paesi d'origine e poi distruzione dei barconi, raddoppio di Triton, ricollocazione d'emergenza condivisa tra tutti i paesi, che è stato proposto ieri dal commissario europeo all'immigrazione. vedremo stasera se è cosa possibile, collaborazione con le Nazioni Unite e sforzo comune alle frontiere meridionali della Libia. E sull'ultimo grande naufragio, del quale non si conosce ancora con esattezza il numero delle vittime, Renzi riferirà domani alle Camere. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito questa tragedia una ferita lacerante. Siamo di fronte a tragedie davvero sconvolgenti, trafficanti di esseri umani che provocano stragi di innocenti. Sentiamo questa ferita e la sentiamo lacerante. È il nostro dovere, dovere dell'Europa, dell'intera comunità internazionale, far di più. Intanto, come dicevo, l'Europa pensa a un'operazione militare per colpire i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo, lo ha precisato uno dei portavoce della Commissione europea, e dal racconto dei sopravvissuti alle catombe emergono sempre più dettagli, mentre gli sbarchi, come avete avuto conferma anche da una notizia arrivata poco fa, non si fermano. Gli ultimi disperati a bordo di un peschereccio che imbarcava acqua sono stati soccorsi questa mattina a 80 km dalle coste della Calabria. Sul balcone 446 persone, tra cui 95 donne e 59 bambini. Intanto 16 dei 28 superstiti del naufragio di sabato notte al largo delle coste libiche vengono assistiti al centro richiedenti asilo di Mineo, in provincia di Catania. Hanno riferito che lo scafista al comando del barcone avrebbe provocato la collisione nel tentativo di nascondersi e non farsi riconoscere. L'imbarcazione, a quanto sta ricostruendo la procura di Catania, era partita la sera del 16 aprile da un porto vicino a Tripoli. I passeggeri erano stati tenuti chiusi in una fattoria per circa un mese. Il costo del trasporto è stato di 500-1000 dinari libici per persona, dai 300 ai 600 euro. Sul numero dei dispersi ancora nessuna precisione. Stando ai testimoni, sul barcone vi erano tra le 400 e le 950 persone, mentre considerando il report del mercantile si stima approssimativamente che il numero dei migranti a bordo fosse di circa 850. In carcere i due presunti scafisti, un tunisino di 27 anni e il complice siriano di 25, nel pomeriggio a Bolzano un nuovo arresto. Si tratta di un 19enne senegalese accusato di essere lo scafista di un barcone il cui naufragio il 12 aprile scorso al largo delle coste libiche avrebbe causato la morte di 350 persone. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la gestione dell'emergenza e migrazione è legata anche alla lotta all'ISIS. Su quest'ultimo fronte c'è una notizia importante che riguarda al-Baghdadi e arriva dal giornale inglese Guardian. Seriamente ferito in un attacco aereo nell'Iraq occidentale, se fosse vera l'indiscrezione pubblicata dal quotidiano britannico Guardian, rappresenterebbe un duro colpo per l'ISIS. Lo Stato islamico ha infatti rischiato di perdere lo scorso 18 marzo la sua guida carismatica in cima alla lista dei ricercati dalla coalizione occidentale, Abu Bakr al-Baghdadi. La ricostruzione del Guardian, avallata da due distinte fonti, riporta che al-Baghdadi sarebbe rimasto gravemente ferito mentre si trovava all'interno di un convoglio di tre auto nei pressi del confine tra Iraq e Siria, oggetto di un attacco aereo da parte dei caccia che stanno bersagliando da mesi le prime linee del califfato. In realtà l'attacco aveva come obiettivi dei leader locali dell'ISIS. Solo successivamente si sarebbe saputo della presenza di al-Baghdadi nel convoglio. Le sue ferite inizialmente avevano fatto pensare al peggio, tanto che gli altri leader ISIS si erano già riuniti per nominare un successore. In seguito le condizioni di al-Baghdadi sarebbero migliorate, anche se ad oggi non sarebbe ancora in grado di guidare operativamente il califfato. Nel frattempo la struttura di comando si sta modificando, secondo il Guardian. I sempre più numerosi attacchi alleati hanno decentralizzato le decisioni ai livelli militari e dei consigli della Shura, mentre l'ISIS continua a perdere terreno sotto la pressione militare congiunta delle forze irachene e curde. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana, con le forti tensioni sull'Italia, come le opposizioni che vanno, come si dice, sull'Aventino, insomma, vogliono partecipare per protesta ai lavori dopo la sostituzione di ieri in Commissione Affari Costituzionali di 10 dissidenti del Partito Democratico. La paura è la palude, la certezza è l'Aventino, il rischio è il voto segreto, ma Matteo Renzi va avanti lo stesso sull'Italicum. Fermarsi oggi significherebbe consegnare l'intera classe politica allo stallo e dire che noi siamo uguali a tutti quelli che in questi anni si sono fermati prima del traguardo. D'accordo il vice segretario PD Lorenzo Guerini. Non possiamo immaginare che nel momento in cui arriviamo alla conclusione di un percorso vi sia sempre l'esigenza di alzare l'asticella, di spostare in più in là il traguardo e non arrivare mai alla conclusione. Ma gli altri partiti non ci stanno alla sostituzione di 10 deputati democratici dissidenti in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, tra i quali Pierluigi Bersani, con altri 10 fedeli al Premier Segretario. Dal Movimento 5 Stelle a Scelta Civica, da sé alla Forza Italia, abbandonano i lavori in Commissione, così il capogruppo azzurro Renato Brunetta. Questa riforma elettorale propongo di chiamarla Deportellum. Siamo usciti da questa commissione, da questa farsa. Renzi non ha più la maggioranza né alla Camera né al Senato, e vorrà mettere anche la fiducia. Glielo impediremo, chiederemo il voto segreto. Per il ministro Elena Boschi l'atteggiamento delle opposizioni è incomprensibile. Mentre i lavori in commissione proseguono e termineranno prima, entro domani, proprio a causa dell'assenza degli altri gruppi parlamentari, ad eccezione del PD. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di pedofilia, perché Papa Francesco ha rimosso il vescovo di Kansas City negli Stati Uniti per omessa segnalazione di un sacerdote sospettato di abusi sessuali sui minori. E questo è il primo vescovo americano che viene condannato per questo. Restando sempre su questo tema, il tema della pedofilia, con l'accusa di aver adescato attraverso un social network minorenni pagati per consumare rapporti sessuali, tre persone, tra cui un prete, sono state poste agli arresti domiciliari nel Potentino. Il sacerdote Don Antonio Calderaro, parroco della chiesa di San Giuseppe a San Costantino di Rivello, che è vicino Potenza, è stato sospeso a divinis ed esonerato dalle funzioni e da ogni attività sacerdotale. E poi questa sentenza della Cassazione: se uno dei coniugi, in questo caso il marito, cambia sesso, il matrimonio resta valido. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della coppia di Alessandra Bernaroli e sua moglie, che si è battuta contro il divorzio imposto. I giudici osservano che c'è un vuoto normativo costituzionalmente intollerabile, manca quindi un modello di relazione tra persone dello stesso sesso. Arcigay dice è il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma, dicono i giudici, non si applica alle unioni omoaffettive. Cosa ne pensate di una notizia come questa? Ci sono sempre le possibilità vostre di mandare le vostre riflessioni o attraverso gli sms al 349-238-6666 o direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma adesso dobbiamo passare al calcio con Dario Ricci, che ci deve aggiornare sulla Champions League, caro Dario. Eccoci cara Roberta. Allora, due le gare in programma questa sera, siamo intorno al 28esimo di gioco, sia a Barcellona, dove i Blaugrana sono in vantaggio per 1-0 sul Paris Saint-Germain, la rete di Neymar al 14 dopo uno splendido slalom di Iniesta. Barcellona, che lo ricordiamo, già l'andata ha vinto a Parigi per 3-0, e sul 3-0 è il Bayern Monaco contro il Porto. Thiago Alcantara, che già aveva segnato all'andata nel K.O. tedesco per 3-1 in rete al 14esimo di testa, sempre di testa il raddoppio di Boateng, e ancora con un colpo di testa pochi istanti fa il 3-0 di Lewandowski, che al momento qualifica i tedeschi, però appunto in virtù del 3-1 dell'andata ai portoghesi basterebbe praticamente una rete per riaprire il discorso qualificazione. Insomma, hanno usato parecchio la testa, Dario Ricci, sì. E mi raccomando, usala anche tu, perché poi ci dobbiamo ritrovare per un sacco di notizie più tardi, Grazie Dario, è scomparso per prepararsi appunto a tra poco, che dobbiamo ritrovarci per parlare di varie altre novità che riguardano il mondo del calcio. Però adesso vi lascio agli aggiornamenti per chi viaggia. Volevo leggere qualche vostro messaggio, addirittura scrivono da Cuba. Ciao Bezos, scrive qualcuno, dice che si vive benissimo, insomma, non faccio fatica a pensarlo, soprattutto da turista, ecco. E Carmine da Cuba, non so se sia veramente lì, ma effettivamente Effetto Notte lo ascoltano davvero da tutto il mondo. Ogni tanto mi ha scritto dalla Germania, dall'Australia, dagli Stati Uniti. Poi qualcuno scrive al 349-238-6666: Renzi, il tesoretto l'ha visto nel suo conto corrente, credo che non lo divida con nessuno. A proposito di questi dubbi su questo tesoretto, di cui anche parleremo più tardi per chiarire un po' di cosa si tratta, i dubbi anche dei tecnici da Banca Italia alla Corte dei Conti, anche proprio per come usarlo poi questo tesoretto. Poi vedevo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito della notizia della sentenza della Cassazione secondo la quale resta valido un matrimonio tra due persone anche se una delle due cambia sesso, naturalmente, insomma, volontariamente, rispetto a entrambi. Sergio dice: mi sembra giusto, non siamo infermi di mente, lo Stato deve entrare il meno possibile nella vita privata, se volevano divorziare avevano la possibilità di farlo. Cristiano dice: mi sembra un precedente stupendo, come se retrocedessero a coppia di fatto, ma facendo vincere la grandezza di una scelta libera e lasciando una tutela necessaria, una decisione giuridicamente sana, lodevole, a seguirne un'altra rispettosissima. Potete continuare con le vostre riflessioni 349-238-6666 per gli sms oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci sulle notizie tra poco, poi ne approfondiamo alcune in particolare. Leggo ancora questo messaggio al 349-238-6666 di William a proposito della sentenza che avevo sottoposto oggi della Cassazione, secondo la quale è valido il matrimonio all'interno di una coppia dove anche uno dei due coniugi, marito o moglie, decide di cambiare sesso. Se loro vogliono continuare il matrimonio è valido. Cosa ne pensate? Vi dicevo anche sulla pagina Facebook di Effetto Note. William scrive: ciao Roberta, pensavo che il film Tutto su mia madre, se ricordo bene quello di Almodovar, era inattuabile e psichedelico, invece con questa sentenza tutto torna in gioco. Adesso vi riassumo brevemente le notizie e poi ci soffermiamo su quella più importante. Allora, legge elettorale, l'Italicum, l'opposizione sull'Aventino, come si dice, insomma tutte le opposizioni più anche i dissidenti Dem hanno deciso di non partecipare ai lavori, quindi di ritirarsi per il momento, con Renzi che difende le sostituzioni fatte ieri in Commissione Affari Costituzionali e dice sono necessarie per la democrazia. E poi per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, l'Unione Europea è pronta a un'operazione militare contro gli scafisti. Intanto i magistrati che stanno mandando avanti l'inchiesta sulla strage di questo fine settimana dicono erano in 850 a bordo, non si conosce ancora esattamente il numero delle vittime. Il comandante era ubriaco e fumava spinelli, anche se sembra un dettaglio un po' irrilevante se vogliamo, visto che sono pronti a tutto e forse qualche bicchiere in più, uno spinello, non è che gli cambi tanto la malvagità e le pessime intenzioni di questi scafisti. Poi il ministro dell'economia Padoan dice siamo fuori dalla recessione, e poi parleremo anche del tesoretto criticato un po' da vari tecnici. Il Guardian, giornale inglese, dà la notizia che al-Baghdadi, il sedicente califfo dell'ISIS, è stato ferito, ma il Pentagono smentisce. Juncker, presidente della Commissione Europea, dice siamo pronti a tutto per non fare uscire la Grecia dall'Europa, si andrà avanti con il negoziato. E poi questa sentenza della Cassazione, il marito cambia sesso ma il matrimonio resta valido, è un verdetto che non si applica alle unioni omoaffettive, però esulta comunque l'arcigay per questa sentenza. Pedofilia, il Papa rimuove il vescovo di Kansas City che aveva coperto un prete sospettato di abusi sessuali sui minori. E poi per quanto riguarda la Champions League, Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco Porto iniziano con queste partite stasera i ritorni dei quarti di finale. E adesso invece parliamo dell'emergenza immigrazione, perché avete sentito anche all'inizio, ho dato notizia di altri sbarchi, di altri salvataggi, e dopo l'immane tragedia di questo fine settimana, che ha segnato questo fine settimana nel canale di Sicilia, per la quale si parla di centinaia e centinaia di morti, ma vi dicevo ancora non si sa quale sia il numero esatto, la procura di Catania nella richiesta di incidente probatorio nei confronti dei due presunti scafisti fermati scrive: dietro il viaggio del barcone con a bordo tra le 700 e le 900 persone naufragato al largo della Libia sabato scorso c'è un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in Libia e in Italia. Questo ormai più o meno si era capito, si dice ormai però da tempo. Ma l'Europa dov'è? Cosa fa? Perché non interviene l'Unione Europea? Va bene solo per imporre all'Unione Europea il pareggio di bilancio, l'austerità, eccetera. Allora, intanto per giovedì è stato convocato un vertice europeo straordinario e poi il commissario europeo per l'immigrazione, Avramopoulos, ha presentato ieri al Consiglio dei Ministri degli Interni e degli Esteri un piano d'azione in 10 punti, di cui ieri vi avevo parlato, da mettere in atto immediatamente in vista del vertice appunto di giovedì. Il piano tra l'altro prevede la cattura e la distruzione dei barconi usati dagli scafisti, dai trafficanti di esseri umani attraverso un'operazione militare proprio agita dall'Unione Europea. E Bruxelles propone inoltre di considerare le opzioni per un meccanismo di ricollocamento d'emergenza degli immigrati arrivati in Europa, cioè propone Bruxelles, per ora una proposta, di fare in modo che quando proprio si tratta di emergenze incontenibili gli stati, i vari stati dell'Unione Europea si facciano carico di una quota possibile di questi immigrati. Però bisogna capire che cosa i trattati europei prevedono e cosa effettivamente l'Unione Europea possa fare, e ne parlo con Antonio Villafranca, che saluto, buonasera. Buonasera a voi. Responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, c'è Leonardo Maisano, corrispondente della Gran Bretagna del Sole 24 Ore. Ciao Leonardo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Leonardo. Allora, fra gli stati abbiamo sentito per esempio che la Germania ormai meta di molti rifugiati, oltre 200.000 persone hanno chiesto asilo nel 2014, ha assicurato ieri che si sente responsabile della questione immigrazione, ha aggiunto l'Italia non è sola, lavoriamo a una risposta europea. Ma gli altri stati europei cosa fanno, che tipo di reazioni hanno. Per esempio la Gran Bretagna, che il 7 maggio va alle elezioni, il primo ministro Cameron quindi insomma vuole mantenere un certo consenso all'interno, Leonardo Maisano. Quindi che posizione ha Cameron e tradizionalmente la Gran Bretagna insomma su questo tema? Su questo tema oggi Cameron ha detto che il Regno Unito darà un contributo alle operazioni di recupero e salvataggio nel Mediterraneo, sempre senza entrare eccessivamente nello specifico. È ovvio che le questioni legate all'immigrazione sono i temi più delicati di questa campagna elettorale. Il 7 maggio si vota, l'UKIP, il partito eurofobo che ha una piattaforma anti-immigrazione, è stato per mesi dato come una delle relative sorprese, comunque un partito populista in forte crescita. In realtà in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, il consenso va diminuendo, ma la questione immigrazione resta un punto nodale. Infatti anche la trattativa futura che Cameron prevede di fare con l'Unione Europea per ottenere condizioni diverse di partecipazione all'Unione prima di andare al referendum sul dentro o fuori dall'Unione, che Cameron prevede di fare, bene, questa trattativa ruoterà intorno al punto immigrazione, addirittura l'immigrazione intraeuropea, cioè lo spostamento dei cittadini europei all'interno dell'UE. Tradizionalmente l'Inghilterra ha sempre avuto, soprattutto sul tema dei rifugiati politici, un approccio molto aperto, nel senso che moltissime persone sono venute qua. In questo momento un impegno dando cifre specifiche è più difficile per l'Inghilterra, non c'è dubbio. Allora, vediamo un attimo, grazie a Leonardo Maisano, brevemente, ogni tanto ci solleva un po' da cose piuttosto pesanti, anche se oggettive, di grandissima importanza. Vediamo Crozza se sta affrontando l'argomento, per esempio, a volte con la sua sapiente anche ironia. Stai tranquillo, guarda, però, che sei in Europa, sta per fallire una banca, c'è la Merkel che esce di casa di corsa con le ciabatte e i bigodini in testa, si infila in aereo, va da Hollande che sta trombando con la fidanzata, gli infila un paio di braghe e risolvono tutto in mezz'ora. Come possiamo definirla l'Europa? Quell'insieme di nazioni che parlano lingue differenti ma che è fondata sull'unica parola comune a tutti? La crana. Ecco, proprio preso al volo, insomma, Antonio Villafranca, Crozza che sta ironizzando sull'Europa unita, che cosa serve e da cosa è unita. Ecco, da un punto di vista della solidarietà e anche del contributo, al di là dell'aspetto etico, insomma, siamo un continente unito anche sulla questione immigrazione, quindi sulla necessità di compartecipare tutti di questa emergenza, o cosa prevedono i trattati, per esempio? Ma quella è proprio la questione fondamentale. E ovviamente il tema dell'immigrazione è un tema fortemente politicizzato, lo si diceva prima anche riguardo alle prossime elezioni britanniche, viene usato un po' da tutti ovviamente anche per catturare dei voti, ma credo che ci voglia proprio un esame aggettivo di quello che l'Unione Europea può fare. L'Unione Europea può fare solo quello che è scritto nei trattati. In tema di immigrazione l'Unione Europea non ha una competenza esclusiva. Per fare un esempio, quando si tratta di negoziare ad esempio il trattato commerciale con gli Stati Uniti, quella competenza è esclusiva dell'Unione, solo l'Unione Europea se ne può occupare. Quando si tratta di migrazioni in realtà l'Unione Europea non può intervenire se non integrando quella che è la legislazione degli Stati. Ad esempio l'Unione Europea in nessun caso può decidere qual è il numero dei migranti che ciascun Paese membro vuole accettare entro i propri confini. Quindi le competenze in realtà sono relativamente limitate e quindi quando si chiede, ad esempio, credo sia importante anche nel dibattito politico italiano chiarire questo punto, cosa può fare l'Unione Europea? Non vuol dire cosa può fare essenzialmente la Commissione a Bruxelles o il Parlamento a Bruxelles, ma cosa può fare il Consiglio, cioè cosa possono fare i capi di Stato e di Governo. Questa è la vera questione. Cioè quelli che si riuniscono giovedì, tra l'altro, no? Assolutamente, assolutamente. Quello che la Commissione può fare, come giustamente ricordava prima lei, con il commissario o con l'alto rappresentante, la Mogherini, è quello di dire queste sono delle iniziative che si potrebbero realizzare, le ha riassunte prima appunto lei, ma in realtà poi tutto deve essere deciso dai capi di Stato e di Governo. Si dice appunto che c'è una cooperazione intergovernativa, cioè tra i governi, e se i governi non vogliono cooperare purtroppo non si va avanti. Quindi questo credo sia un elemento proprio dirimente, perché altrimenti si fa molta confusione. E le do anche, se mi permette, sì, un altro diciamo spunto. L'Unione Europea nel bilancio, molto limitato, l'1% del PIL europeo, il bilancio dell'Unione Europea in generale, nel periodo tra il 2014 e il 2020, per queste politiche di migrazione ha soltanto 3 miliardi. Di questi 3 miliardi, 500 milioni andranno all'Italia, che è di gran lunga il maggior beneficiario. Quindi in realtà, a livello di soldi, con quei pochi soldi che ci sono, si cerca effettivamente di favorire l'Italia, ma il problema è che le risorse sono scarse e le competenze limitate. Tra l'altro, quindi ci ha fatto capire che o si cambiano i trattati europei, come quello di Dublino, quello di Schengen, oppure si fa un nuovo trattato, per esempio giovedì si pongono le basi per un nuovo trattato, oppure ogni Stato può anche decidere io non voglio partecipare nell'affrontare questa emergenza, quindi si tira indietro, non accoglie né profughi né ci mette del suo, delle risorse anche economiche per cercare di essere partecipe, insomma, di questa situazione. Vedo che la Presidente della Camera Boldrini, a proposito della proposta di distruggere i barconi, questa operazione militare che dovrebbe partire da parte dell'Unione Europea, dice significa affondare i barconi di scafisti, per farlo bisogna avere l'autorizzazione del paese in cui sono presenti. E a chi si chiede in Libia questa autorizzazione? Forte perplessità viene espressa quindi dalla Presidente della Camera Boldrini proprio a Di Martedì, lì dove abbiamo sentito Crozza poco fa sulla 7. Leonardo Maisano, ma comunque la Gran Bretagna, anche se adesso appunto stringe un po' i cordoni con Cameron per una questione anche di consenso elettorale, ha negli anni ospitato molti immigrati. Assolutamente sì, quello non c'è dubbio. Adesso però il tema, secondo me, al di là espressamente di quanti immigrati può ospitare ogni paese, che pure è assolutamente importante, è anche quello, come dire, di una certa autocritica. In Inghilterra in qualche modo si sta vedendo adesso, sulla fine dell'operazione Mare Nostrum e la cessazione, come dire, quel passo indietro che ha fatto l'Unione Europea rispetto alle posizioni e a quello che stava facendo l'Italia nelle operazioni nel Mediterraneo. Cioè, Inghilterra si rende conto che pure era stata contraria a sostenere Mare Nostrum ulteriormente con fondi, con finanziamenti, con sforzi europei, si rende conto che forse quello certamente è stato un errore. L'Unione Europea ha dei precedenti in realtà di operazioni del genere, perché in Somalia, se non mi sbaglio, ci fu un'operazione proprio sotto le bandiere dell'Unione Europea contro gli scafisti somali, quindi un precedente c'è. Non credo che in Somalia ci fosse un governo con una condizione, come dire, dal punto di vista del diritto internazionale, una solidità molto superiore a quella della Libia, della Libia adesso. Voleva aggiungere qualcosa Antonio Villafranca, anche se appunto ci sono chiare le cose, aspettiamo di vedere se giovedì cambia qualcosa a livello di Unione Europea. Se mi permette aggiungerei, è stato ricordato essenzialmente l'operazione Atalanta che era stata fatta proprio per fronteggiare la pirateria in Somalia. È vero che anche lì la situazione era difficile, però c'era un mandato internazionale chiaro, una presa di posizione chiara che al momento non c'è riguardo alla Libia, perché il vero problema è che manca una strategia e una chiara politica estera dell'Unione riguardante la Libia. Ma concretamente cosa vuol dire questo? Vuol dire fare un'azione militare, che ha un costo peraltro, che va ricordato, per cui si impedisce praticamente a questi barconi di arrivare in acque internazionali. Ora, ricordiamoci però che il 60% circa di queste persone che salgono sui barconi vengono da zone di guerra, vengono dalla Siria, dall'Eritrea, dal Mali, dalla Palestina, dalla Somalia, cioè persone che nel momento in cui vengono ributtate indietro probabilmente non hanno neanche le risorse per ritornare in questi paesi e che verrebbero lasciati, persone che potrebbero avere l'asilo, che molto probabilmente avrebbero diritto all'asilo. Quindi c'è anche un problema di diritto internazionale che deve essere preso in considerazione. Non vorrei arrivare a dire, ecco, di un problema morale, però sinceramente esiste anche una questione di questo tipo, certo, che va considerata, certo, perché bisogna essere molto concreti nel definire appunto questa operazione. Aspettiamo dunque di vedere giovedì, vediamo se qualche idea illuminante può essere definita, qualche misura concreta e costruttiva giovedì. Grazie Antonio Villafranca, grazie Leonardo Maisano. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Ciao Leonardo, vogliamo sentire un attimo Laura Boldrini di martedì sulla 7? Bisogna fermarli in mare. L'immigrazione, effettivamente. Chi dice bisogna impedire che si muovano? Lei che idea si è fatta? Allora, io mi sono fatta un'idea molto chiara. Da quando mondo è mondo, in guerra i civili cercano di fuggire, di trovare sicurezza. Questa è la verità. Ha confermato quello che diceva poco fa Antonio Villafranca, insomma. Guardi, scappano da situazioni dove fuggirebbero in ogni caso, anche se sapessero che dovessero rischiare molto in mare, quasi tutto. Credo che sia una delle cose più normali della natura umana. Quando c'è un bombardamento, quando c'è il rischio che tua figlia venga violentata, quando hai assistito alle peggiori torture, agli abusi delle persone a te vicine, cosa fai? Rimani? Non c'è alternativa. Quando non c'è più la casa perché la casa è crollata, cosa fai? Rimani. Immaginatevi, mettiamoci nei panni di una famiglia che vive questa realtà. Insomma, non hanno nulla da perdere, questa è la verità, continueranno a scappare. Bisogna, naturalmente ci sono i problemi anche di chi accoglie, di chi deve soccorrere, è veramente un problema immane, ma bisogna davvero che i vari paesi dell'Unione Europea e non solo l'Europa, insomma, si concentrino su delle misure anche solidali. C'è anche l'aspetto naturalmente morale, etico, ma c'è anche quello pratico. Non dico trovare delle soluzioni perché sembra un termine davvero poco opportuno per un problema così grande, però vedere in che modo si possano prendere delle misure che siano un po' più efficaci, un po' più intelligenti di quello che è stato fatto finora. Direi di fermarci, di prenderci un po' di ricreazione. Vedo altri vostri messaggi al 349-238-6666, il numero per gli sms, e anche sulla pagina Facebook di Effetto Note, ma dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi. Questa riforma elettorale propongo di chiamarla Deportellum, altro che Italicum. È la legge dei deportati, perché se qualcuno non è d'accordo deve essere cacciato via. Io non sono cacciata via, sono qua sempre Roberta Giordano con voi e mi sono sovrapposta a Renato Brunetta, il tormentone di questa sera, che dice che il deportellum l'italicum perché Renzi secondo lui si comporta con la democratura, si comporta da dittatore non da democratico, per aver sostituito ieri in commissione affari costituzionali 10 deputati del PD, per l'appunto, che erano dentro la commissione, per sostituirli con quelli un po' più allineati sull'italicum. Sento lo studio, se si può levare, ecco lo studio, grazie a Pietro Corte. E dicevo, volevo prima di tornare a riepilogarvi le notizie, se avete acceso a quest'ora, ma vi prego ricordate di accendere alle 21 per ascoltare Effetto Notte, ancora sulla notizia di questa sera. Prima abbiamo parlato moltissimo di immigrazione, di cosa l'Unione Europea effettivamente è in grado di fare, parleremo tra poco di tesoretto, ma ritorno su una notizia di quelle di oggi, non sono tra le principali ma comunque sono di carattere sociale, che riguardano i diritti civili, con questa sentenza della Cassazione secondo la quale anche se il marito cambia sesso il matrimonio resta valido, e così ha vinto questa coppia che si è battuta contro il divorzio imposto. Ci sono i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, ne ho letti qualcuno prima. Leggo anche questo di Pu, che dice: imporre il divorzio è come imporre il matrimonio, ma la libertà umana dov'è? Per fortuna che Gesù insegnava l'amore, mi pare poco diffusa la sua parola. Poi dunque Giuseppe dice: una sentenza ok solo se i due avevano già figli, se no, se non ci sono figli, il matrimonio tutela figli e coppia gay non può avere figli in modo naturale. Questa è l'opinione di Giuseppe. Poi un altro messaggio: certamente lo Stato non deve interferire nella scelta di una coppia. E poi c'è Carmen da Cuneo che dice: la metterò questa notizia sul mio Facebook, sono molto molto contenta per la sentenza della Corte Costituzionale e contenta per le prime posizioni della Chiesa contro la pedopornografia e pedofilia. Stiamo diventando, almeno in questo campo, un paese civile. Adesso vi ricordo le notizie. Immigrazione sul barcone della tragedia erano in 850, si è rovesciato per la collisione con un mercantile. L'Unione Europea intanto si dice pronta a un'operazione militare contro gli scafisti. ISIS, è arrivata questa notizia del sedicente califfo al-Baghdadi dell'ISIS che è stato ferito gravemente in un raid della coalizione anti-jihadisti, anche se il Pentagono smentisce. L'Italicum, dopo le sostituzioni dei parlamentari PD di ieri in Commissione Affari Costituzionali, le opposizioni sono sul piede di guerra, ma Renzi ribadisce andiamo avanti su tutto. Tesoretto, da Banca Italia, Corte dei Conti, tecnici esprimono dubbi sulla consistenza e sulla destinazione del bonus, ne parleremo tra pochissimo. Poi pedofilia, il Papa rimuove il vescovo di Kansas City, coprì un sacerdote sospettato di abusi sessuali sui minori, e la sentenza della Cassazione che state discutendo tra pagina Facebook e gli sms al 349-238-6666, anche se il marito cambia sesso il matrimonio resta valido, in questo modo ha vinto con i suoi ricorsi la coppia che si è battuta contro il divorzio imposto. E adesso parliamo di questo tesoretto. Quella di oggi è stata una giornata di audizioni per le commissioni congiunte di bilancio di Camera e Senato sul documento di economia e finanza 2015, quindi sul DEF. Ci sono stati degli interventi che hanno confermato dei dubbi sulla quantità, la consistenza di questo cosiddetto tesoretto e anche su quella che dovrebbe essere poi la sua destinazione. Tra gli interventi di coloro, dei tecnici che hanno valutato questo tesoretto, Giuseppe Pisauro, presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, ha messo in guardia per dall'idea di poter contare sul 1,6 miliardi di euro di bonus, meglio appunto conosciuto come tesoretto. Dice: sembra prematuro, ha sottolineato Pisauro, pensare di utilizzare la cifra annunciata da Renzi nel DEF 2015 reputandola già acquisita. Poi c'è stato anche l'intervento questa mattina dei rappresentanti della Banca d'Italia, che anche loro insomma, hanno focalizzato l'attenzione sul tesoretto definito modesto e dovuto interamente alla minor spesa per interessi. Ma sentiamo direttamente cosa ha detto il vice direttore generale di Banca Italia Luigi Federico Signorini. Per l'anno in corso la deviazione rispetto agli impegni circa la riduzione del disavanzo strutturale, un decimo punto percentuale, come ho detto, è modesta, ma in linea di principio e coerentemente con lo spirito della normativa in materia di finanza pubblica, appare opportuno che un andamento tendenziale del saldo migliore delle attese, peraltro dovuto interamente alla minore spesa per gli interessi, a sua volta legata alle eccezionali condizioni della politica monetaria, sia utilizzato per accelerare il riequilibrio della finanza pubblica. Quindi vi dicevo, oltre ai dubbi, i tecnici sono divisi anche sulla destinazione, perché Banca Italia, avete sentito, è per riequilibrare un po' il debito, insomma, mentre i tecnici della Corte dei Conti dicono dovrebbe servire per le risorse dovrebbero servire per le riforme e la crescita. Ne parliamo con Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Chicco, quindi ciao, c'è questo buonasera. Tesoretto, e dove deve essere messo questo tesoretto? Innanzitutto abbiamo sentito che il tesoretto, insomma, non siamo proprio ancora sicurissimi che ci sia, perché dobbiamo spiegare forse o rispiegare che cos'è questo tesoretto. Il tesoretto è la differenza tra il deficit programmato dal governo, cioè quello che con la legge di stabilità dell'anno scorso il governo aveva, diciamo, previsto 2,6% rispetto al PIL, e invece il deficit tendenziale, cioè diciamo quello che effettivamente servirà durante o dovrebbe servire durante il 2015 per finanziare la spesa pubblica. Quindi resta uno 0,1% di PIL, questo decimale, no? Che appunto vale 1,6 miliardi e che abbiamo sentito nei giorni scorsi, insomma, la politica, molti esponenti del governo, insomma, in qualche misura anche Renzi, che ha, diciamo, immaginato di poter utilizzare questo 1,6 miliardi, veramente non stiamo parlando di una cifra, insomma, rispetto al bilancio dello Stato ovviamente molto molto molto piccola, quindi diciamo all'interno del governo si sta ragionando, molti stanno ragionando sulla possibilità di destinare questi quattrini a interventi di tipo sociale, rifinanziando magari una parte del bonus di 80 euro per i soggetti che adesso non lo prendono, insomma facendo cose più o meno di questa natura. Oggi però invece, diciamo, dai tecnici, quindi sia dall'ufficio parlamentare di bilancio, e abbiamo sentito Giuseppe Pisauro, sia dalla Banca d'Italia, sia in fondo dalla Corte dei Conti, arriva, diciamo, un invito al realismo, quindi dire aspettiamo un attimo, perché da qui a fine anno non sappiamo se poi questo miliardo e sei ce l'avremo veramente oppure non ce l'avremo. Sappiamo che insomma anche a livello diciamo internazionale, la vicenda della Grecia, eccetera, insomma ci sono tante incognite ancora da qui a fine anno. Banca Italia addirittura dice: beh, supponiamo anche che questo tesoretto molto contenuto ci sia, ma allora forse è meglio tenerlo, diciamo, da parte per magari far fronte nei prossimi mesi a situazioni di incertezza che al momento non possiamo prevedere. Quindi diciamo il dibattito di oggi è stato un po' caratterizzato da questa diciamo presa di invito al realismo da parte della Banca d'Italia, da parte della Corte dei Conti e da parte dell'ufficio di bilancio. Noi che ci contavamo su questo tesoretto. Vabbè. Va bene. Chicco Padula, poi vedremo anche prossimamente come procede naturalmente il DEF, ma insomma mi pare poi sia una battaglia anche del sole questa da tempo, no? di cercare di mettere i piedi, di tornare con i piedi per terra a proposito del tesoretto, non è molto confortante. Sì, no, ma dico, quello che afferma oggi Pisauro è esattamente quello che abbiamo affermato noi alcuni giorni fa, dicendo che il sole insomma l'aveva detto. Grazie Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore e Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Molto velocemente, sempre in primo piano c'è l'emergenza immigrazione con l'Unione Europea che si dice pronta a un'operazione militare contro gli scafisti, ci sono anche, c'è dello scetticismo intorno a questa operazione, comunque si attende giovedì questo vertice straordinario del Consiglio Europeo. E poi sull'Italicum le opposizioni sull'Aventino appunto protestano per la mossa di ieri del PD che ha sostituito i parlamentari dentro la Commissione Affari Costituzionali con quelli un po' più allineati sull'Italicum. E Renzi difende queste sostituzioni, dice sono necessarie per la democrazia. Poi ci sono anche le partite di Champions League di cui parleremo tra pochissimo. Padoan, ne abbiamo parlato poco fa, dice siamo fuori dalla recessione ma il tesoretto, dicono i tecnici, bisogna capire se c'è effettivamente, quale sia la consistenza e poi capire quale sia meglio di destinazione. E l'ISIS, la lotta all'ISIS con il giornale Guardian che dà questa notizia di Baghdadi, il sedicente califfo che è stato ferito anche se il Pentagono smentisce. Europa 24 notte. Torniamo a parlare di tratta di esseri umani, perché pensate che il 65% delle vittime europeo, la tratta degli esseri umani, sia per sfruttamento sessuale o per motivi di lavoro, è una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. La legislazione europea in materia c'è, ma va applicata, così ammonisce la coordinatrice antitratta dell'Unione Europea, Miria Vassiladou, oggi in visita in Italia, intervistata da Alessandra Schepisi. We know that in Europe only the number of registered victims. In Europa solo le vittime registrate tra il 2010 e il 2012 erano 30.146. L'80% di queste erano donne e ragazze. Il 69% di tutte le vittime è stato utilizzato per il traffico sessuale e la cifra sale al 95% per quel che concerne le donne. Il 71% degli uomini è vittima del traffico di manodopera. Quali sono i paesi maggiormente interessati? Ci sono anche paesi europei? Il 65% delle vittime è cittadino europeo, quindi è un problema che riguarda da vicino l'Europa. Molte vittime vengono dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'Olanda. Molti sfruttatori dalla Nigeria, Brasile, Cina. Come affrontare il problema? Quali le soluzioni? It's a very very complex problem that changes all the time, like all forms of organized crime. È un problema molto complesso che cambia di volta in volta. Ciò che è importante è ricordare che si tratta di qualcosa che ha a che fare con la violazione dei diritti umani. Occorre perseguire i colpevoli, prevenire il fenomeno, questo è fondamentale, proteggere e assistere le vittime. Ciò che fa la legislazione europea europea. È tutte queste cose, ma il problema è applicarla davvero. In realtà, ciò che voglio dire è che se vogliamo capire davvero il problema e risolverlo, dobbiamo seguire il denaro, cioè capire da dove viene chi trae profitto e dove va il denaro. E dobbiamo anche capire la domanda. Parliamo sempre di vittime di trafficanti, ma mai di chi usa i servizi di queste persone. Se non abbiamo la domanda e non abbiamo il profitto, allora non abbiamo la tratta. If we don't have demand and if we don't have profits, we don't have trafficking. Qual è il rapporto tra la tratta di esseri umani e il traffico di immigrazione clandestina? Si può dire che il traffico di immigrazione è aumentato, come sappiamo, in maniera esponenziale negli ultimi mesi, può favorire la tratta? Yes, a very good question. Sì, è una buona domanda. C'è un forte legame tra il traffico illegale di esseri umani e la tratta, lo sfruttamento. Vorrei ricordare innanzitutto che la maggior parte delle vittime di tratta ha la nazionalità europea, ma non è oggetto di traffico illegale, e cioè non attraversa nessuna frontiera. Mentre la tratta di esseri umani comporta una violazione dei diritti umani. Il traffico di migranti consiste nella violazione delle leggi nazionali di uno o più stati. A volte le differenze tra tratta e traffico sono minime, in quanto in molti casi accade che i migranti che si rivolgono ai trafficanti per l'attraversamento illecito dei confini nazionali, in un secondo momento diventino vittime di tratta. Infatti, non è raro che il trafficante si tramuti in vero e proprio sfruttatore o che metta il migrante nelle mani di una rete di sfruttamento. Insomma, c'è un rischio, quindi dobbiamo proteggere tutte le persone in condizioni di vulnerabilità. Il vero lavoro è identificare chi è coinvolto nel traffico clandestino dell'immigrazione e chi invece sta sfruttando gli esseri umani. Per poter intervenire, dobbiamo capire le differenze e le similitudini. So it's very, very important that we understand both the similarities and the differences. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso abbiamo completamente argomento perché c'è il nostro Dario Ricci, finalmente qui con me in studio. Ciao Dario. Sempre d'Europa pure parliamo. Sempre d'Europa, Champions League. Però in realtà. Poi se c'è tempo dobbiamo parlare anche della conferenza stampa della Juventus, di Zeman che lascia il Cagliari, del Parma in vendita. Vediamo. Diciamo tutto. Partiamo dall'attualità della Champions League. Vedo un 5-0. 5-0, sì. Il Bayern Monaco doveva rimontare il 3-1 subito a Porto all'andata. Beh, direi che ne ha fatti 5 in 40 minuti, quindi qualificazione ormai in dirittura d'arrivo per i bavaresi, così come praticamente qualificato anche il Barcellona, che dopo il 3-1 già ottenuto a Parigi è in vantaggio per 2-0 sul Paris Saint-Germain, doppietta di Neymar. Questo per quanto riguarda l'Europa del pallone. Invece per quanto riguarda l'Italia del pallone, Juventus, Zeman, Parma, di cosa preferisci? Beh, per la Juventus è la vigilia della sfida che racconteremo anche qui domani, in effetto, no? Notte, domani sera, altro quarto di finale insieme al derby di Madrid. Una Juventus non spavalda, perché il vantaggio è minimo, quello dell'andata 1-0, ma sicura dei propri mezzi, perché l'ha detto capitano Buffon, sarebbe l'occasione, per mai ce ne fosse bisogno, per ricordare a tutti che siamo tornati dall'inferno della Serie B di Calciopoli, diciamo così. Un po' di tempo, insomma, che sono tornati. Sì, infatti. E sul fronte interno, diciamo così, invece ci sono queste notizie. L'addio, il secondo stagionale di Zeman, che era al Cagliari, poi era stato già esonerato, era venuto Zola, anche lui aveva deluso. Tornato Zeman, che ora... Sì, proprio col Cagliari non c'è compatibilità. Direi che questa non è l'annata buona, a dir poco, per il Cagliari, quasi rassegnato ormai alla Serie B. Al suo posto arriva Gianluca Festa, e peccato, perché insomma le squadre di Zeman, quando funzionano, fanno sempre divertire. Speriamo che tornino a divertirsi presto anche i tifosi emiliani del Parma. Perché? Perché via libera alla vendita del Parma, base d'asta, stabilito il giudice, di 20 milioni, ma questo prezzo è destinato a scendere rapidamente, perché ogni mancata asta diminuirà del 25%. Vabbè, quindi è probabile che si arriverà intorno ai 6 milioni, ma il debito pregresso è 75 milioni. Quindi qualcuno se lo può comprare così da piccolo privato. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo tra poco.